L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, agriturismi ha un effetto negativo a valanga sull'agroalimentare italiano, una perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi per i mancati acquisti di cibo e bevande nel 2020, i dati che arrivano da Coldiretti. Confcommercio lancia invece l'allarme per i bar storici italiani, caffè locali nati tra il XVIII e il XX secolo lungo tutta la penisola, in alcuni casi veri pezzi della nostra storia. Perché se è vero che questa crisi ci lega tutti in una sola catena, ci sono anelli che cambiano pelle, altri che soffrono di più. Ben ritrovati da Anna Migliorati. E allora perché non regalare a Natale il nostro posto del cuore? E non questa volta un luogo d'arte, ma proprio il nostro posto per un caffè, un aperitivo, una pizza. Partiamo da una provocazione e dalla nostra storia, nata come tante durante il lockdown, ma che in qualche modo ci aiuta a riflettere. E allora saluto una delle fondatrici di Posto del Cuore, Maria Beatrice Casarosa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Posto del Cuore, una piattaforma solidale volta a sostenere le attività commerciali, in particolar modo i ristoranti, attraverso ad esempio appunto la vendita di voucher sulla nostra piattaforma dai propri posti del cuore. Il trucco è questo: anche se il ristorante è chiuso, io acquisto la cena e ci andrò, ma intanto il mio ristorante è in cassa. Esattamente. Com'è andata, visto che l'avete già fatto in primavera? Poi in estate qualcuno li ha già usati questi buoni? Sì, è andata veramente molto stato, i clienti hanno acquistato i voucher dei loro posti del cuore e sono andati quest'estate a consumarli appunto presso i ristoranti, e oggi, diciamo, visto il periodo nel quale risiamo, abbiamo rilanciato anche recentemente una campagna sempre con Nastro Azzurro che si chiama Pizzeria del Cuore, che danno la possibilità ai clienti di acquistare, quindi una consumazione valida per due persone, la birra, l'offre Nastro Azzurro. Valida quindi, fino a quando? È valida fino al 31 dicembre 2021, quindi i clienti possono acquistarla ora e andarla a spendere per tutti i prossimi mesi. Ecco. Quando si spera torneremo a poter andare più sereni in pizzeria. Senti una cosa, ma potrebbe essere anche un'idea per i prossimi regali di Natale? Esattamente, noi ora stiamo pensando anche alle carte regalo, e offre una cena nel proprio posto del cuore per farlo conoscere anche a un proprio amico, è proprio un gesto che oggi è necessario per cercare di contribuire alla ripresa delle attività commerciali, in particolar modo dei ristoranti. Quindi regalo una cena, preservo il mio posto del cuore da quello che sta succedendo. Beh, insomma, ricordiamo il sito dove trovare tutto questo? Tutto questo è possibile trovarlo su www.postodelcuore.com. Me ne farei due, presto presto che me ne devo andare a letto. Guardia notturna, capito? Pizze due. Cosa? Amende. Umberto Scognamiglio, pizza una. Don Rosà! Signor! Mi favorite due pizze? Vi servo subito! Solo uno dei tantissimi esempi, fatemene altri anche voi. Oltre alle iniziative dei singoli ristoranti, sono nate piattaforme che offrono buoni acquistabili oggi per essere riscattati quando la situazione cambierà, sulla scia dell'iniziativa globale nata ancora una volta negli Stati Uniti a New York, dinningbond.com. Ci sono poi tutti di casa nostra i hashtag buono, hashtag E3O dell'associazione di categoria FIPE, che valgono una cena riscattabile quando il locale riaprirà. E dopo essere stata sperimentata con successo in Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Australia, anche in Italia c'è la campagna Salviamo i ristoranti di The Fork, il sistema di prenotazione di TripAdvisor. Anche qui, per acquistarli è sufficiente identificare il locale preferito, cliccare sul pulsante acquista voucher. Ma appunto ce ne sono davvero tantissimi. D'altra parte l'ISMEA stima per quest'anno un arretramento della spesa per consumi alimentari fuori casa quasi della metà, meno 48% rispetto al 2019, una perdita di quasi 41 miliardi di euro. Perché lo sappiamo, se è vero che consumiamo di più a casa perché a casa facciamo pasti in più, non nascondiamoci che spenderemo meno, qualcuno incasserà meno e così via via lungo come dicevamo, una catena. Ma siccome di bar, ristoranti, esercenti abbiamo parlato davvero tante volte anche qui all'Economia delle Piccole Cose, questa volta proviamo a risalire un gradino di questa catena e saluto allora Vincenzo Caso di Italgrob, che riunisce questa volta i grossisti, chi c'è dietro. Benvenuto. Buongiorno, pure a lei. Buongiorno. Cioè, noi perché siamo abituati ad entrare negli alberghi, nei bar, nei pub e a trovare un po' di tutto sempre, no? Trovare sempre cibo, bevande, diamo un pochettino, diamo tutto per scontato. Dietro a tutto questo lavoro ci stanno dei distributori che in effetti forniscono quotidianamente questi locali. Noi in effetti in Italia siamo intorno ai 1800 distributori di food and beverage e possiamo dire intorno ai 4000 distributori per il canale Horeca. Ecco, e come stanno andando? Noi viviamo di questo, giustamente. Ma esistono dei distributori in alcune aree d'Italia, dove possiamo pensare di Venezia, possiamo pensare Costiera Sorrentina, Capri, dove realmente l'estate non è mai partita, perché chi viveva con il turismo estero, neanche i 3 mesi che abbiamo lavorato c'è stata la possibilità di poter fare qualcosa. Quindi noi siamo quelli che unisce la filiera della produzione, quindi dei nostri fornitori, con quella che è quella la parte della distribuzione. Quindi abbiamo sofferenza di scadenza, sofferenza nell'incassare quella che noi abbiamo venduto a novembre, a dicembre dell'anno scorso. Grazie, non solo Napoli, tutta Italia, la situazione è più o meno questa. Piccola economia nel carrello della spesa. Sì, perché oltre a fare i conti, ritroviamo allora questa settimana invece chi ci ha accompagnato, ricorderete, nei mesi di lockdown, lo salutiamo così, Marco Colombo di IRI, società di analisi di mercato, bentornato con noi. Buongiorno Anna e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quello che siamo riusciti un po' a capire è che gli aperitivi a casa anziché fuori, le cene a casa anziché fuori, alla fine non valgono la stessa cosa, sono diverse sia per spesa sia per catena che ci sta dietro, è così? Lo dicono anche i numeri? Sì, è vero, lo dicono anche i numeri. Le bevande, in particolare spirits, aperitivi e birra, che sono un po' il componente del momento dell'aperitivo, sono cresciute anche a doppia cifra, come si conferma in queste prime settimane di lockdown, ma non riescono a bilanciare le perdite di oltre il 50-60% in alcuni periodi, e a chiusura d'anno la stima è di un meno 30% di quella che è la filiera della distribuzione bevande nel canale bar. Insomma, uno spritz in casa non è la stessa cosa, neanche una cena. Sì, l'acquisto dei prodotti che servono per costituire il pasto, quindi il piatto di pasta, il sugo, piuttosto che carne, che ha avuto tassi di crescita molto importanti a livello di vendite nella distribuzione moderna, più del 15-16% negli ultimi mesi, però hanno un prezzo unitario più basso. A parità di cibo consumato, di quantità di cibo consumato, il valore associato non è stato sicuramente bilanciato. Chi ci ascolta potrebbe dire: ovviamente ci sta, me lo cucino da solo, è una cosa diversa, però anche tutto questo contribuisce a fare poi la somma, se dobbiamo fare un discorso che vale per tutti. Si è detto anche che esattamente come sul fronte sanitario, anche sul fronte economico ci sono anche i cosiddetti asintomatici del virus, prima di tutte le società del web che forniscono piattaforme digitali per le app, l'elettronica che produce i device, ma tra i cosiddetti asintomatici economici c'è appunto anche la grande distribuzione, è vero? Sì, anche la grande distribuzione può essere considerata uno dei settori che sta traendo un certo beneficio da questa situazione. Crescite che stiamo osservando in queste ultime settimane, prima di pre-emergenza autunnale e ora di lockdown, per quanto selettivo, dicono di tasse intorno al 10% di crescita su settimana rispetto all'anno precedente, con alcune categorie particolarmente dinamiche, parliamo dei surgelati piuttosto che le carni, cresciute del 18%. Si nota tuttavia una significativa differenza rispetto all'atteggiamento del consumatore delle prime settimane di marzo. Non c'è più il fenomeno dell'accaparramento o del timore di non avere accesso a questi beni, e la modalità di acquisto è stata più equilibrata. Insomma, la sindrome appunto d'accaparramento ce l'abbiamo ormai alle spalle. La polemica è forte sul Black Friday, il prossimo fine settimana, ma in realtà poi è esteso in Italia a molto altro. Perché fa paura? Potrebbe avere delle ricadute sui consumi poi di Natale, ammesso che riaprano i negozi in molte regioni? Gli effetti del Black Friday si sono visti anche negli anni precedenti, ovvero è quello che accade durante una tipica promozione, e se pensiamo che questa del Black Friday è una promozione in steroidi, l'effetto in termini di caduta dei consumi successivi può essere effettivamente importante. Negli anni scorsi quello che si è visto è stato una particolare riduzione degli acquisti nei negozi nelle settimane successive. Il rischio che corriamo quest'anno, in particolare per i negozi fisici, è legato alla grande importanza che ha avuto il mondo dell'online in questa fase di pandemia e di lock-in. Ovvero il consumatore italiano si è abituato a fare acquisti a distanza, non ha più quel freno al canale online di vendite di e-commerce, anche perché gli altri negozi che facevano concorrenza e che in qualche modo si erano adattati, avevano costruito una loro proposta. Oggi sono concorrenti che non ci sono, non e ci quindi sono. Diciamo è un po' una fase di monopolio. Allora, grazie intanto per essere stato con noi, abbiamo rifatto un po' il punto su come ci stiamo muovendo, ci ritroveremo magari anche delle prossime settimane. Intanto buon sabato. Grazie Anna e buon sabato a tutti. Grazie, noi invece ci risentiamo con la prossima storia e la prossima economia. Un saluto anche da Anna Migliorati.